in questi ultimi minuti si sta diffondendo la notizia che in realtà sia stato tutto uno scherzo telefonico organizzato dalla trasmissione radiofonica La Zanzara. Ora staremo a vedere se così sarà. Perché? Perché in questo caso non si sa se Renzi o Bersani, in ogni caso il Partito Democratico sarebbe vittima di uno scherzo piuttosto crudele. Per ora è tutto, a voi. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Grillo parlante se ne fregherà. Al diavolo il predicatore che predica la sua morale. Grillo è un cabarettista di talento ed è un politico rancido. Usa un linguaggio schifoso. Parla del Presidente della Repubblica come di un malato di Alzheimer. È violento come il capo della tifoseria camorrista del Napoli, è intriso di sporcizia morale, è un putrido e torpiloquente tribuno del nulla, perché non ha un programma, non ha un progetto, ha consiglieri ridicoli a partire dalla capigliatura e che hanno un'idea della realtà connaturale solo a certi dementi teorizzatori del governo mondiale. Il mio soave disprezzo va a tutti coloro per i quali Grillo è un interlocutore politico, lui e quella banda di sciamannati che ha mandato in Parlamento. Questo è il sobrio giudizio, il giudizio moderato di Giuliano Ferrara su Beppe Grillo. Caro David, ma ti faccio ascoltare in apertura di questa trasmissione qualche novità su Jenny Acarogna. Allora, devi sapere, tu che ti trovi lontano dall'Italia e impegnato in altre faccende, devi sapere che oggi hanno dato 5 anni di DASPO, che significa proibizione ad entrare nello stadio, al signore Jenny Acarogna, quello che andava in giro con la maglietta Speziale Libero, l'assassino di un commissario di polizia. Beh, ti dirò una cosa molto forte, a parte che non si sente una mazza, ma insomma lasciamo perdere come al solito. Ti dirò una cosa, io sono contrario a questo provvedimento. Non conto nulla, ma è una ipocrisia infinita. Ma che cosa ha fatto questo Jenny Acarogna? Ha commesso qualche reato? C'è stato qualche comportamento disdicevole all'interno dello stadio? No, perché a un certo punto è stato chiamato da qualcuno a parlare con dirigenti, poliziotti, eccetera, eccetera. È stato chiamato da altri. Certo, si è arrampicato sul trespolo e solo per il fatto che uno si arrampichi su un trespolo, su una balaustra. Sì, d'accordo, ma in quel caso vadano a ripescare altre cose, perché in quel caso sono stati chiamati i capi degli ultra, sono stati chiamati adesso ipocritamente, danno 5 anni. E poi l'altra follia, Alfano, il ministro degli interni, ha detto che chiunque indossa la maglietta Speziale Libero e deve essere punito con la proibizione di entrare nello stadio. Ma perché, scusa, questo non ho capito. È giusto. Ma questo quale è giusto? Ma è una follia anche questa. A parte che è impossibile controllare, primo. Secondo, non ho capito. Beh, io non posso. Là viene preso, come è possibile controllare? No, scusa, no, ma che ci dopo mettiamo a controllare chi indossa le magliette? Ma siamo seri. No, ma non è una maglietta qualunque. Se qualcuno avesse una maglietta che inneggiasse ad Adolf Hitler, commetterebbe un no, reato. Non ti No, ti sbagli. Guarda che se io mi metto una maglietta, scusami, con la testa di Hitler, non mi dicono nulla. L'altro giorno qualcuno mi ha offerto un quadro, e probabilmente lo comprerò a 1500 euro, un bellissimo quadro d'autore in cui c'è la raffigurazione del signor Hitler. Beh, ma che schifo. No, ma io ho due o tre busti, ho due o tre. Siccome tu sei molto ricco, hai 1500 euro da buttare via anziché magari darli alla Caritas o a chi ma vuoi. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Vuoi comprare un quadro di ma è una cosa vergogna. Ma è una cosa artistica, è una cosa artistica. Ma mi fa schifo, vabbè. È arte per te, io sul quadro di Hitler ci defeco sopra. Pensa te che sei, io ho anche due busti di Hitler. Ma ce li ho di Stalin e ce li ho di Mao. insomma, io voglio dire una cosa: se uno indossa una maglietta speziale Libero e se ne va allo stadio, ha tutto il diritto di indossarla. È un coglione, un imbecille, ma non è che uno deve essere, capito, gettato via dallo stadio perché indossa una maglietta. Sono palliativi, vi stanno prendendo per il culo. I provvedimenti da fare sono altri: sciogliere gli ultra come organizzazioni criminali, non la maglietta, il DASPO a 5 anni a Gennaro La Carogna. Ma di che stiamo parlando? Queste sono cose elettorali, cose elettorali. Senti il padre di Gennaro La Carogna che dice: Speziale non ha ucciso Raciti. E quella maglietta è con scritto, allora, Speziale. Ti spiego subito. Che non è un po' un'offesa nei confronti della mamma. Allora ti spiego subito: quel ragazzo che è stato condannato a 8 anni di carcere è Speziale. Un narcisista. Ma lei come fa a sapere? Perché è venuto qua? Perché è venuto qua? È stato da me prima che facciamo un di cattura. L'ho tenuto con me. A te la giocava da sbarra, rindare avanti. Chi sta aiutando te? Ma lo ha già acciso. Chi l'ha acciso? È stata la polizia che l'ha salito con il cuore. A marcire, capito? Signor Ciro De Tommaso, il padre di Jenny a Carogna, si dice certo dall'alto della sua scienza, dall'alto della sua giurisdizione, che il povero Raciti non è stato ammazzato da Speziale, che certo ha chiesto la revisione del processo, eccetera, eccetera. La mamma invece, la mamma di Jenny a Carogna, dice: mio figlio, se non era per mio figlio chissà cosa accadeva. Se non era per mio figlio, non lo so che succedeva là se non si faceva la partita. E poi lui non se l'ha visto nemmeno. Ma c'è chi è incorreggibile, allergico a tutte le prediche. Vabbè, lasciamo perdere questa vicenda che mi fa veramente orrore per l'ipocrisia che c'è. Cioè, 5 anni di DASPO, per me quel tizio lì non deve stare allo stadio, ma non deve stare allo stadio perché bisogna sciogliere questi signori, questi gruppi, non perché gli dai 5 anni adesso dopo aver parlato. Cioè, ci sei andato a trattare, gli dai 5 anni, ma dico, ma siamo pazzi? Oh, secondo Berlusconi, a Cesano Boscone ci saranno delle sorprese, chissà cosa farà. I vecchietti, bisognerà rispolverare Crozza, ti ricordi Crozza che, no? Sa già che cosa farà quando sarà a Cesano Boscone? Alcune cose sì, le so, e ho in serbo anche una grande, grande sorpresa, perché mi sono bastati 10 giorni per andare un po' a fondo sui sistemi di cura che si possono applicare. Dato che abbiamo già un ospite, caro David, dato che abbiamo già un ospite, parleremo ancora del culo della Bacchiddu, della signora Bacchiddu di Tsipras. Beh, ma perché devi dire, culo, sedere, ieri sera ho detto sedere a tango, ma posso dire anche culo, non c'è problema, mi è scappato sedere, mica per pigrizia, mica per moderazione, mi è venuto da dire. Ma io non vorrei che si parlasse di quello, che pure è un argomento augusto. Aspetta, parleremo, ho detto, del culo della signora Bacchiddu. Però vorrei riproporti quello che ha detto il signor Mughini ieri sera su un ospite che abbiamo collegato dal sud Italia, da quello che mi si dice. Mughini su Matteo Salvini, sentiamo. Questo ciarlatano è Salvini? Sì, è Salvini. Ma io non capisco, ma perché Jenny La Carogna è peggio di lui? Non lo so, Jenny La Carogna è al suo livello, no? Oltretutto Jenny La Carogna ha un suo ruolo di capo di un'orda. Di capo di un'orda, sì. È vero, e lì sta, mi sembra. Ti amo Terrone, ti amo Terrone. Oggi, da quello che leggo, Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, oggi è stato, non dico cacciato, ma insomma praticamente sì, cacciato dai napoletani, da un gruppo, certo ristretto, comunque cacciato dai napoletani, ma adesso ne parleremo. Il signor Mughini, lei conosce il signor Mughini? Sì, mi sta anche simpatico, anche se da milanista, però è uno juventino simpatico. Uno juventino simpatico. Ha detto che lei praticamente è peggio di Jenny A. Carogna, per quello che dice, si riferiva alla Fornero, ad altre cose, ha parlato di scialtroneria assortita, peggio di Jenny A. Carogna, così ha detto. Perché lascio giudicare agli ascoltatori se le parole di Mughini hanno un senso. Non so se dire che la Fornero è un essere umano da maledire, che noi stiamo cercando di cancellare la sua infame legge e essere accostati a Jenny a Carogna. Allora sono orgoglioso, se riesco a cancellare la legge Fornero chiamatevi Salvini a Carogna. Però questa non è male, però cioè se riesco a cancellare la Fornero chiamatemi Salvini a Carogna. Guarda, però Matteo, se riesco a farlo per sei mesi potete darmi gli epiteti che volete, perché sono contento della però, missione. Però maledetta, quando uno dice ad una persona maledetta è quasi un Fornero. Dai. Sì, la Fornero, dal mio punto di vista, la maledico io a nome di uno qualunque dei 400.000 esodati che ha lasciato in mezzo a una strada o dei pensionati che ha rovinato. Però ho capito, ma signora Fornero è anche una che ha problemi di sicurezza. Se uno dice è maledetta, autorizza qualcuno ad andare là, dice tu mi hai rovinato la vita, te do una bastonata, ti tiro una pietrata. No, cioè, guarda, come no? La non violenza fa parte del mio mestiere. Io la maledico politicamente e voglio cancellarla politicamente, seppellendola di firme. Vabbè, e chi d'accordo. Ci sta ascoltando può fare nel suo comune. Poi neanche un fiore va gettato in faccia ad alcuno. Infatti oggi ci sono rimasto male a Napoli perché a far casino non erano dei napoletani. Beh, sì, erano napoletani. 30 ultra, sì, erano 30 ultra con la felpa del Napoli che inneggiavano a Jenny a Carogna. Ma siccome ero lì a parlare di lavoro, di legge Fornero, di legge Merlin sulla prostituzione. Com'è che facevano? Vattene, lavati col fuoco. Che cosa dicevano? Vattene, lavati col fuoco, infame, meglio. Ecco, però scusa, dopo tutto. Mughini, però erano sulla linea da Mughini, più o meno, perché dicevano che bisogna portare rispetto a parlare Jenny a Carogna. Io non lo conosco, magari è una stimabilissima persona. Cioè, quelli che. Tu stai dicendo, Matteo, scusa, che quelli che ti hanno, non dico aggredito, ma insomma quasi, a Napoli erano tutti amici di Jenny a Carogna? Ma non so, io non li conosco, così sostenevano, inneggiavano questo signore. Ma ripeto, io sono tifosissimo, vado in curva da quando ho 10 anni, però la partita è la partita, il lavoro è il lavoro. Però scusami, uno potrebbe dire una cosa, Matteo, dopo tutto quello che tu nel passato, anche se ti sei pentito, hai detto di aver sbagliato, abbiamo però chiesto scusa 18 però volte, le cose restano, Matteo, uno dopo quello che tu hai detto e dopo quello che altre persone della Lega hanno detto su Napoli, magari scherzando, esagerando, se uno va a Napoli qualche problema se lo pone e magari l'hai fatto apposta per avere... qual è la soddisfazione? No, qual è? No, la soddisfazione è che dopo questo atto incivile di questi 30, questa sera immagino saranno allo stadio a far casino con la maglietta che inneggia chi ha ammazzato un ispettore di polizia. Sì. Mi sono arrivati 300 inviti a tornare a Napoli da parte di imprenditori, architetti, giovani disoccupati, studenti, professori per bene, che magari dicono io non la penso come la Lega, ma ognuno deve poter esprimere. Ma questo non c'è dubbio, che tutti debbano esprimere la loro opinione, questo non lo mettiamo in discussione. Ieri sera abbiamo portato come Lega 250 persone a Lamezia Terme, a parlare di Europa. Anche e lì c'è stata qualche contestazione, mi sembra, anche lì c'è stata c'erano alcuni insegnanti. No, però ti dico, Matteo, una cosa: se studenti in classe. Se Matteo Salvini, anche tu, un anno e mezzo fa, ti ricordi, Parenzo, quando venne qui alla Zanzara? Insomma, tu ci hai detto che a Napoli hai dei problemi ad andare. Ci credo. Se lì vale più un coro da stadio che un 1000 posti di lavoro, però io ci torno. Dunque sei andato un po' è stata una provocazione andare a Napoli. No, guarda. Sono andato a Catania l'altra mattina al porto di Augusta a incontrare i lavoratori del porto, adesso sono arrivato a Loco Rotondo dove parleremo di Europa. Insomma, di tornerai lavoro. A Napoli. Però assolutamente sì, a testa alta, perché Napoli non è. Ma ti fideresti ad andare con i tuoi figli a Napoli? Dimmi la verità. No, non voglio tirare in ballo dei bimbi di 10 anni perché lo scemo c'è a Milano e c'è a Napoli. No, d'accordo, ma tu, Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, dopo quello che è successo, andresti a passeggiare col centro di Napoli con i due bambini? Visti gli energumeni che ho trovato oggi. Ripeto, quella non è Napoli, quella non è la vera Napoli. No, d'accordo, Napoli, ma ci andresti sì o no? Rispondimi, scusa. E cosa mi vuoi far dire? No, che non andresti con i tuoi figli a Napoli. Dipende da dove vado, mi farò consigliare meglio le zone a questo punto. Diciamo la verità, passeggiare Matteo Salvini che passeggia al centro di Napoli con i due figli è impossibile. Ma io lo voglio fare, io pretendo di poterlo fare. E allora dillo, andrò con i miei due figli a passeggiare al centro di Napoli. No, dei bimbi non si tirano mai in ballo, quindi ci vado io, ci metto la faccia io e ne esco bene io, perché Napoli è un'altra roba, non è Jenny a Carogna. Però non metto a repentaglio i miei figli. No, ma figurati te, ci mancherebbe altro. I figli La mia bimba l'ho portata orgogliosamente a Pontida domenica. Li lascio al nord. Guarda, l'avrei volto volentieri con me in questo momento alla Corotondo, che è un posto incantevole e spero di poterci tornare con 2, 3, 4 figli. Vabbè. E a Napoli diciamo che il calcio è sentito purtroppo in maniera esagerata o perversa, perché succede solo lì. Sono stato a Salerno questa mattina. Ti amo Terrone. Lavati col fuoco! Pomodoro! Così è stato respinto, caro Parenzo, Salvini a Napoli. Secondo te, Parenzo, se l'è cercata? È naturale questa reazione di una piccola parte di napoletani, dati i trascorsi, dati precedenti, no, caro Parenzo? Se l'è cercata, no, ma ogni volta che c'è qualcuno che viene respinto da un posto, su questa ragione Salvini, uno non è che può essere cacciato, è italiano Salvini, non è, e non ha commesso niente, ha fatto dei commenti pesanti nei confronti dei napoletani. Vabbè. Ma perché usare violenza e cacciarlo? Certo è che mi sembra molto più grave invece quello che state dicendo e propagandando da mezz'ora, cioè che si può indossare liberamente la maglietta e incitare alla morte di un commissario di polizia. No, io ho detto semplicemente, l'ho detto io e non l'ha detto Salvini, primo. Io ho detto semplicemente una cosa, che dare il DASPO, a parte che come al solito Parenzo non si sente una mazza, però Matteo, io ho detto che dare il DASPO per 5 anni a uno con cui hai trattato mi sembra un'ipocrisia. Cioè, assolutamente. Alfano non è capace, Alfano non è buono di fare il ministro. Ma tu dai il DASPO di 5 anni a ipocrisia, a parte il fatto che stasera a Napoli spero che non succeda niente, ma la vedo grigia. Ma poi è lo stesso ministro che ha votato lo svuota carceri. Tu che credibilità hai? Vabbè, quello è un altro discorso, dai. Quando, no, ma tu voti lo svuota carceri che fa uscire i rapinatori e poi dai il DASPO a uno per una maglietta, che è demenziale, però preferirei che desse il DASPO a quelli che sbarcano a Lampedusa piuttosto che ad altri. Il DASPO a quelli? Che sbarcano, qua c'è la tubercolosi che torna in casa nostra. Ridaglia con sta tubercolosi, ma c'è. No, e chi la porta sta tubercolosi? E tu sei preoccupato per la tubercolosi? Non arrivano dalla Svizzera quelli che portano la tubercolosi. Da dove arrivano? Io sono preoccupato. Da dove arrivano? È arrivato dall'Africa, evidentemente. Chiedetelo a qualunque medico che lavora in un pronto soccorso milanese o tarantino. Prima ero a Taranto, chiedetelo cioè anche a chi. Cioè, gli extracomunitari portano le malattie, questo vuoi dire? Purtroppo è mica colpa loro, però se là c'è un sistema sanitario evidentemente un pochino più arretrato, c'è e non anche ci sono Ebola, dei controlli, anche Ebola, gabbia, tubercolosi. Ebola c'è in Centrafrica, penso e spero che non arrivi dalle nostre parti, anche se l'allarme c'è negli aeroporti. Parenzo, sei preoccupato tu per la tua famiglia, per i tuoi figli? Ebola, dice Salvini, malattie varie portate. Io sono preoccupato del razzismo, l'unico Ebola che c'è è l'Ebola del razzismo, che qualcuno semina e mette in giro. Cioè, stai dicendo che Salvini è razzista, diciamo la verità. Stai dicendo che parlando di Ebola e malattie, Salvini è razzista, dillo chiaramente. Ma è un dato di fatto. Se tornano alcune malattie come la scabbia e la tubercolosi, che non c'erano più da decenni, evidentemente è un problema per chi le porta, che va curato, e per gli italiani che sono a serio rischio. Quelle mamme che non hanno mandato i bimbi in gita a Modica perché prevendevano gli autobus con cui vengono trasferiti i clandestini, sono razziste o sono mamme di buon senso? Vabbè, però è un problema sanitario, non è un problema di... Cioè, è una questione sanitaria, non è una questione politica, è una questione, è una questione sanitaria legata all'immigrazione, dai, su via. O blocchi questo flusso incredibile di nuovi schiavi oppure rischieremo di pagarne le conseguenze. Sarà mica accoglienza quella di sbatterne 300 in mezzo alla stazione centrale dove i turisti fanno a zig zag saltellando in mezzo ai bambini. Vabbè, ma la soluzione è sempre una. Poi quando si parla di bisogna colpire i trafficanti lì sul luogo d'origine. Certo, ma non col Mare Nostrum, noi stiamo aiutando gli scafisti. Noi stiamo pagando come Stato italiano gli scafisti, siamo un governo demenziale. Non stiamo aiutando nessuno scafista, stiamo semplicemente evitando che la gente muoia in mare, solo questo stiamo facendo. E così viene a morire in Italia invece che in mare, aiutiamoli là. Senti, guarda, ti dico, da leghista brutto e cattivo, ti dico, i milioni di euro che stiamo sbattendo via qua, spendiamoli tali e quali in Africa, per farci una scuola, senti, una strada e un ospedale, Matteo, tali e quali. Rinnovi il patto che hai fatto qui, anche se i sondaggi in questo momento ti danno o danno la Lega oltre nettamente il 4%, però... rinnoviamo questo patto, se non supera il 4% che succede? Che adesso che insomma... l'avevo detto quando andava male, ho detto adesso che andiamo bene, faccio il segretario di un movimento stupendo, se non riesce a superare il 4%, ho detto che mi sarei dimesso e lo ripeto, però siamo ben superiori, fortunatamente. Vabbè, per adesso sì, poi bisogna vedere, ovviamente. No, ma la parola la mantengo, non faccio come Renzi, quello che dico cerco di fare. Deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba butto spesso il storico, corica, non voglio farti fredda, ma troppo... Oh, tanto per capirci, ieri alcuni cronisti che sono andati nel quartiere di Forcella a trovare parenti, amici, a cercare lo stesso Jenny a Carogna, ne sono usciti con qualche botta in testa, con qualche bastonata, con qualche schiaffo. Sentite. Stavamo cercando No, non pigliamo niente. Stavamo per Gennaro De Tommaso. Sapete dove la Carogna? A Carogna. Dove posso trovarla? Vado quando c'è una Carogna. Mezzo Forcello diventa. Comoda, comoda, sull'erba butto spesso il discorso. Niente bene, non venite qua, ci cagato cazzo, niente bene. Stiamo grazie a Dio, niente bene. Iateven! Oh, a me impressiona per esempio che ci sono persone, ci sono persone che non si fanno sfuggire nemmeno in questo caso la possibilità di fare campagna elettorale, di dire stronzate. Per esempio sentiamo l'esponente del PDL Gabriella Giammanco, la signorina Giammanco, la quale dice: Berlusconi si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato al posto di Renzi, al posto di Grasso. Ma figuriamoci. Immagini allo stadio e nessuno che interviene, e Renzi che sorride assieme a Grasso in attesa che inizi la partita. Invece se ci fosse stato Berlusconi sarebbe sceso. No, guardi, se ci fosse stato Berlusconi si sarebbe alzato, se ne sarebbe andato, avrebbe immediatamente chiamato il Viminale. L'abbiamo visto negli retroscena, so che Alfano è stato cercato dal prefetto e non ha risposto. In quel momento non si trovava neanche il Ministero dell'Interno, quindi il responsabile, il principale responsabile della sicurezza. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Camusso dura con il governo, distorce la democrazia, lancia 4 sfide, pensioni, ammortizzatori sociali, lavoro, povero e fisco. La replica del ministro Poletti alla Camusso, il governo ascolta ma poi decide, decreto lavoro, forse domani la fiducia in Senato. Riforme, si cerca l'accordo sul Senato, Berlusconi frena ma poi dice per il bene del paese forse entro nella maggioranza. 5 anni di DASPO a Jenny la Carogna, non risolutivo il test sugli spari per l'ultraromanista, timori per la partita al Napoli. Più grave, il giovane ferito operato d'urgenza, il CONI contro i violenti, fare come la Thatcher, lo Tito, non tifosi ma delinquenti. Ucraina, alta tensione a Slaviansk, roccaforte dei secessionisti dopo gli scontri di ieri, l'OSCE chiede il cessate il fuoco per le elezioni. Dopo la barbara uccisione della donna a Firenze, vertice degli inquirenti in procura, il capo della mobile e altri casi simili nella zona. Guardatela la sua allegria di questa grande donna mia, lasciatemela vivere la gioia del suo culo e del suo cuore. A proposito del culo della signora Bacchiddu, esponente della lista Tsipras, la quale ha messo il suo lato B, il suo sedere in mostra sopra una barca per dire non parlano di noi, allora faccio vedere il culo perché così vi dimostro che a questo punto tutti parlano della lista Tsipras. In realtà non è vero, tutti hanno parlato solo ed esclusivamente del fatto che la lista Tsipras con questa mossa forse si è data una zappa sui piedi, perché sono gli stessi, caro Parenzo, sono gli stessi del presidente della Camera Boldrini, sono gli stessi del presidente della Camera Boldrini, esponente di SEL, dunque anche di Tsipras, la quale dice continuamente, e ti posso pescare un qualsiasi audio, che il corpo della donna non può essere utilizzato per la pubblicità. E questa allora che cos'è? Non è forse una pubblicità? E ancor di più gli spot in cui vediamo che il corpo della donna viene usato per pubblicizzare che cosa? Viaggi turistici, yogurt, automobili, computer. Ma in quale altro paese questo verrebbe tollerato? È lo stesso paese, lo stesso partito? Lo stesso partito cui appartieni, caro Presidente della Camera, lo stesso partito cui appartieni, che attraverso la sua portavoce, questa volta della lista Tsipras, mette in primo piano il lato B, il culo, per far parlare di sé. Capito, Parenzo? È finito. Tu lo sai che è tutto finito dopo questa roba, no? Tutto finito. Ma io non credo che sia così, guarda. In realtà io criticai la Boldrini quando disse quella cosa lì. Quindi non vedo anche la contraddizione. Ho capito, ma non vedi la contraddizione tra quello che dice la Boldrini e quello che ha fatto questa signora di Tsipras? No, vedo dai, su. Sento una stupidaggine che è quella che ha detto la Boldrini, perché la pubblicità in tutto il mondo è fatta così. Dopodiché loro hanno fatto una provocazione, qualcuno mi pare che abbia... Dai, è finita, dai, è tutto finito dopo no, questa roba, ma dai. Scusami, esiste un problema, che vabbè, non i media non parlano... Ma non esiste nessun problema del genere, non esiste alcun problema del genere, esiste, nessuno. Perché anche tu non hai voluto, come io ti ho suggerito più volte, interrogarti su quali sono... Senti, se io sento una cosa interessante, invito una persona, se interessante secondo i miei parametri, così ragiono. Secondo me Luca Casalini dice cose interessanti. Va bene, senti, io non so dove sei, avevi promesso che eri ad una linea stabile, non si sente una mazza, non si sente una mazza, non si sente una mazza. La vivere, la gioia del suo culo e del suo cuore. La gioia del suo culo, cantava Vecchioni. Vittorio Feltri, ieri sera a Tango, dice che il culo della Bacchiddu è meglio parlare del culo della Bacchiddu. Quando tu cammini. Ha messo una foto su Facebook mostrando un sedere, dicendo... un corpo, diciamo, dai. Sì, no, un sedere, cioè eccolo qua, lo potete vedere tutti, un sedere, lo possiamo vedere a pieno schermo, cioè non è strano, ecco. Beh, non è mica tanto brutto, io l'ho visto, non è tanto brutto. No, anzi, assolutamente no, però lei dice... Vogliamo adesso commentare il sedere della Bacchiddu? Parliamo del sedere, dai, sì, parliamo del sedere. Hai ragione, sarebbe il caso di parlare del sedere, assolutamente. Per capire il tuo dolore. Oh, Mario Adinolfi, questa mattina, Radio 24. Senti cosa dice a proposito della Bacchiddu. Ti appassiona almeno questa storia della Bacchiddu, come la Minetti? È divertente il confronto fra zoccolette, insomma, è abbastanza interessante. Come zoccolette, no! Fai il bravo! Dai, sto trovando questo, eh. E fuggitivo ridere. Bacchiddu e Minetti, due zoccolette. Giacomo da Torino, buonasera. Buonasera. Dimmi Giacomo. No, volevo chiedere solo una cosa per fare un parallelo, no? Tra il famoso Jenny Agaragna e qualcun altro. A parte il fatto che io trovo di un'ipocrisia pazzesca quello che è successo, cioè che hanno dato un daspo di 5 anni, per la carità. Io a Speziale avrei dato anche più di 8 anni. No, non è Speziale, è Jenny Agaragna, comunque. Sì, è Speziale. No, vabbè, d'accordo, però lui inneggiava a Speziale, cioè voleva la libertà di Speziale. Allora io vi chiedo questo, no? Se dovessi girare domani con una t-shirt con su scritto Berlusconi libero, cosa mi potrebbe accadere? Lei dice pregiudicato Speziale per altri reati, pregiudicato anche Berlusconi. Certo. Però la provocazione ci sta tutta, Parenzo, cioè te lo dico, la provocazione ci sta tutta, caro Davide. Non è per nulla così, perché gli stadi sono un concentrato di violenza, specie alcune curve, e in quel contesto quella maglietta assume tutt'altro valore. Ma che c'entra il contesto? Ma cosa c'è? Ma non puoi dare, non puoi impedire a uno di entrare allo stadio perché c'è una maglietta. Io dico, quella persona... Siccome tu ancora sei obnubilato dalla vicenda del sedere, quindi ti chiedo di concentrarti solo un secondo e non pensare soltanto al sì, sedere. Ma non fare ragionamenti troppo complessi, amico mio, perché no, veramente è di una noia mortale, altrimenti lo avanti. Lo capisce anche una scimmia, sì, guarda. Sì, avanti, vediamo, vediamo, sentiamo, dai, sentiamo, sentiamo, sentiamo. Se tu vai allo stadio con quella maglietta, ha un significato, cioè si chiama istigazione alla violenza contro la polizia. Questo si ma chiama. Ma che vuol dire? Dai, ma è una vita che gira quella maglietta, nessuno è intervenuto. È una cosa ipocrita, è una vita, io non la metterei mai, mi fa schifo quella maglietta, mi fa schifo, mi fa orrore, ma ci sono tante magliette che mi fanno orrore in giro, tantissime magliette, è un'ipocrisia, quella maglietta gira da anni, perché non hanno fatto niente fino adesso? Perché intervenire sulle magliette è ridicolo, ridicolo, pigliassero quelle persone allora, e li mettessero fuori dallo stadio, sciogliessero i club, chiudessero le curve, non hanno coraggio, si attaccano alla maglietta, questo è il punto. Vogliono gesti esemplari da parte la maglietta dello Stato. Giacomo da Torino, di nuovo, Giacomo. Il gesto esemplare praticamente sarebbe quello di dare un DASPO a Jenny Acarogna, che poi entrerà sicuramente in ma sì, ma dai, il DASPO di 5 anni. Ma prima ci parlano, prima ci parlano e poi gli danno 5 anni, patetico, vietiamo, dai, patetico. Vietiamo le trasferte. Bravo, bravo, trasferte. Bravo. A questo punto qui questo è il gesto esemplare. Facciamo un gesto esemplare. Per 5 anni si vedono trasferte. Vediamo se poi ricontinuano. Io farei giocare a porte chiuse alcuni eventi, alcuni eventi dove... Ma è possibile che l'intelligence funzioni solamente quando si tratta di... bisogna vedere poi in che modo il terrorismo, eccetera, eccetera. Cioè, bisogna utilizzare la prevenzione, le intercettazioni, pure per questi criminali, che sono conosciuti uno per uno, vanno lì in curva, sono già... Cioè, c'è già un settore preciso, vanno fotografati, schedati, sciolti. Ma di che parliamo? Andrea da Napoli. Ciao, salve, buonasera. Dimmi, dimmi. A prescindere dai convenevoli complimenti, siete grandi. Io sono uno spettatore, sono un tifoso del Napoli. Vado regolarmente allo stadio, non sempre, ed ero a Roma, proprio molto vicino a Jenny Acarogna. Cioè, in che senso, scusi? Ero in curva quella sera, sì. E sono un testimone dei fatti, non sono un ultra, premetto. Sono un tifoso pacifico. Non, allora, io condanno la maglietta, condanno tutto ciò che riguarda la violenza negli stadi. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. San Bruce proprio addosso a me. Continua la campagna di Grillo contro Renzi, ormai è un monologo in ogni comizio, in ogni dove Grillo attacca Lebetino. Per la prima volta ho guardato un po' la televisione e ho visto e mi è venuto di nuovo un cuore tremendo, perché ho visto la morte della Repubblica, l'ho vista morire così in una partita di calcio, ho visto morire con Jenny Acarogna e sugli spalti invece c'era Renzi. Renzi a menzogna, Renzi a menzogna. E allora vuol dire che lo Stato non c'è più, la Repubblica non c'è più. E vedere il capo della polizia andare da Jenny Acarogna e dirci e dire: signor Carogna, scusi, quando possiamo cominciare la partita? È bellissimo, allora vuol dire che il mondo si è rovesciato. E allora dov'è lo Stato? Quanti stadi si solleveranno ancora vedendo che magari la classe politica era lì, che non ha preso nessuna iniziativa, sono andati via subito con le loro auto blu, pensate che ce le hanno ancora, 6 le hanno vendute su eBay. Ma pensate un attimo, andare i meno giovani, andare un attimo indietro alla memoria, pensate un attimo se ci fosse stato sugli spalti uno come Pertini che avesse avuto davanti Jenny a menzogna, prendeva la pipa e gli dava delle pipate in testa e l'avrebbe mandato via a calci nel culo. Bisogna dire, caro Parenzo, che qui Grillo si appropria del nome di Pertini quasi in vano, più volte lo ripete anche in altre occasioni, appropriazione indebita di ex presidente della Repubblica. Però la critica, vabbè, la critica, senti, fammi sentire Andrea da Napoli, dai, fammi sentire Andrea da Napoli. E chi c'è? Allora, spiegavo i fatti un attimo. Cioè tu eri insieme a Jenny Acarogna. Sì, su Jenny Acarogna. Succede che gli ultras, come si è fatto portavoce Jenny Acarogna, quello era un gruppetto di 300 persone, no? Ma tu sei pure amico, nel senso, lo conosci? No, io sono proprio al di fuori, solo che sono arrivato tardi allo stadio e quindi ho trovato i posti solo davanti, è stato un guaio perché poi comunque ci sono stati attimi di tensione. hanno chiesto semplicemente al questore, e poi è arrivato AMSIC e tutta compagnia vacante, delle navette per andare via dallo stadio. E infatti si può anche notare che gli ultra, dopo il primo... Cioè, non ho capito, hanno chiesto delle navette per andare via dallo stadio chi? Per gli ultra. Cioè gli ultra volevano delle navette? Delle navette per andare via. Io ero là vicino, io... Ne ho sentite tante in questi giorni, no? Veramente in tantissime. Non ho capito cose. Perché volevano le navette. Per andare via quando? Alla fine della partita? O No, subito. E infatti, dopo il primo gol del Napoli, dopo 11-12 minuti, sono andati via. Ah, volevano delle navette per andare a trovare quello ferito? Sì, e sono andati là. Che poi d'altronde hanno trovato anche i tifosi della Lazio che gli hanno offerto il soggiorno. Sì, sì. È stato un bellissimo gesto. Cioè, poi oltre questo, c'è. Cioè, su Napoli si sta facendo in questi giorni anche Salvini, oggi ero in Piazza Carlo III a pure lì ieri. Cioè Andrea, tu pure lì ieri. Io posso essere il tuo inviato. No, però Andrea, scusate, tu eri vicino a Jenny Agarogna, Parenzo, senti questo qua. Era vicino a Jenny Agarogna quando c'è stata la trattativa, chiamiamola così, con la discussione. Anche il biglietto e le foto certificate. Con la polizia. In più oggi era a contestare Salvini e poi mi stai dicendo che eri lì per caso. Sei un ultra pure tu, Cioè Andrea, No, la verità. No, io non sono andato. E che sei andato a fare a contestare Salvini? Cosa diceva Salvini? Perché non ha detto niente, è venuto là, ha detto sempre no all'euro, no alla legge Fornero, poi lui dice questi atti di violenza, si vede uno che spinge anche dai video, però se vedete dai video la maggior parte hanno fatto cori, come fanno loro da anni. Sì. Come fanno loro, cioè atti di violenza, tu dici allo stadio, dici allo facendo stadio. Cori, sì, vabbè, ecco, poi no, ma come giudichi tu questi cinque anni di Daspo al signor Jenny Agarogna? No, vabbè, allora vogliamo parlare del Daspo. Il Daspo è una coglionata incredibile, perché funziona solo in Italia, che non è applicato purtroppo. All'estero i tifosi possono andare. Questo è il Daspo italiano, è una cosa incredibile. C'è il biglietto nominale e io posso entrare con qualsiasi altro documento, perché gli steward non vanno a rischiare la vita sicuramente per 23 euro che prendono al giorno di lavoro. Hanno messo i tornelli. Non ho capito, Andrea, al di là del fatto di raccontarci che questi volevano la navetta, per cosa ci hai telefonato oltre a questa cosa qua? Era per spiegare questo, perché se ne sentite di tutti i colori, ma la realtà in effetti è stata questa. Vabbè, però c'è una trattativa, c'è stata. Cioè, c'è questi, stata una trattativa, ma questi perché? Ma non sulla partita. Non su giocare o no la partita, per avere sta navetta. Ma perché uno dovrebbe dare la navetta a questi qua per andare? Ma l'hanno ottenuta sta navetta o no? L'hanno ottenuta e sono stati scortati. Ma vi rendete conto o no? Cioè, Jenny Agarogna, lo Stato tratta, secondo la testimonianza di questo Andrea, lo Stato tratta con Jenny Agarogna e con gli esponenti del tifo napoletano organizzato in curva la protezione con una navetta in più, la scorta per andare a trovare il napoletano ferito. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Sì. Ma sono follie, Andrea, sono follie. Sono follie. Io sono d'accordo con te. Dai, su, ma non bisogna trattare con nessuno. Non bisogna farlo, siete ancora più potere a queste persone. Cioè, questi sono stati scortati secondo quello che racconti. Scusa, questi sono stati scortati, adesso magari è uscito, non me ne sono accorto, non ho letto tutti gli articoli, sono stati scortati con delle navette per andare a trovare questi tizi, cioè la trattativa più o meno c'è stata su questo. Molti se ne sono andati a Napoli, che io sappia, vabbè. E alcuni molti sono andati a trovare quello ferito, ragazzo che è stato sparato, perché poi non dimentichiamo che questa è stata tutta una conseguenza. Vabbè, sì, l'hanno sparato, ma non è che gli altri sono degli angeli, eh. Cioè, è chiaro che l'uso delle pistole è una cosa. Ma voglio dire io, uno prende una pistola e spara, ed è giusto questo. Ma no, figuriamoci, ma ecco, assolutamente. Ecco, va bene, Andrea. Una persona razionale. Grazie, grazie, Andrea. Appelli sulla lingua, per questo io ti seguo. Grazie, sempre. Grazie, caro. Ma Massimo da Bari, dai. Massimo? Pronto? Dimmi. Mi sentite? Sì, dimmi, Massimo, dai. Ah, buonasera. Senta, veramente io avrei telefonato questa volta e anche la volta scorsa, quindi io avrei più di una cosa da dire. No, ne dica solo una, Massimo. Una. L'ultima. Sì, l'ultima, sì. Quella maglietta, volevo semplicemente sconsigliare quel ragazzo che ha telefonato prima, sì. che diceva io vado in, me ne vado in giro con la maglietta con scritto Berlusconi libero. Sì. Volevo semplicemente sconsigliargli di non farlo. Volevo consigliargli di non farlo perché rischia di prendere un sacco di botte. Ma figuriamoci, perché? Massimo, quali botte, dai, su, cioè non... no, ma nessuno se ne accorgerebbe, uno che va alla scritta. Dici di no, io dico di sì. Ma figuriamoci. Quello rischia di prendere tante di quelle mazzate, ma tante di quelle mazzate. Ma no, perché... no, non si rischia nulla, no. Non si rischia nulla. Si va bene, grazie, niente. Andrea da Monza. Sì, pronto, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, io volevo dire due cose. La prima riguarda la puntata di ieri che ho ascoltato Toscani, Oliviero Toscani, un morto di fama, che si presenta nella tua trasmissione, dice delle cose da delirio. Sì. Per molto meno, quando noi ascoltatori interveniamo, sì, tu cosa fai? Mandi la sirena, poi la sceneggiata di mandare l'ambulanza. Vabbè, dai, non dire stupidaggini. Ha detto delle cose sulla religione cattolica, sul Vaticano, il suo pensiero, delle cose folli. Va bene. Vabbè, folli. Poi... Sono forti, folli, poi? E poi volevo chiedervi di fare un'altra riflessione su merito a Napoli, napoletani e compagnia bella. Allora noi ci dobbiamo domandare come mai i tifosi del Napoli, quando si spostano, vanno a Verona e ci sono problemi, vanno a Milano e ci sono problemi, vanno a Bologna e ci sono problemi, vanno a Torino e ci sono problemi. Ma non è che forse il problema sono loro? Ma no, ma non fare il razzista, è inutile, dai Andrea, i tifosi, tipo, i problemi dei tifosi non sono solamente quelli del Napoli, dai, tutti, su, non diciamo stupidaggine, è pieno di tifoserie del nord che fanno casini quando vanno in giro, dai. Abbiamo con noi, caro Parenzo, Carlo Freccero, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Carlo, come stai? Molto bene, scusa, l'ho ancora visto il tuo programma televisivo. Ma no, figurati, stasera. Meno male. Bene, no, no, stasera, giovedì lo devi vedere, giovedì. Giovedì, va bene. Lunedì, ecco, e giovedì. Fatto anche così poi mi chiami e mi dici vai a fare in culo, no, hai sbagliato ma tutto. Ma hai sbagliato. Dai, infatti iniziamo, per favore. Se, sì. Senti Carlo, nella disfida che si è aperta, mi sembra in maniera abbastanza evidente, tra Santoro e Grillo, perché Santoro ha detto una cosa l'altro giorno presentando il programma di Giulio Innocenzi, ha detto insomma basta con questi attacchi ai giornalisti, se Grillo insiste non è che lui è la verità assoluta, no, non è che lui tutto quello che dice lui va bene, tutto quello che dice gli altri è sbagliato, noi addirittura scenderemo in piazza. Tu con chi stai, caro Carlo? Allora, innanzitutto questa anticipazione l'ho vissuta a Dogliani, sì, al Festival della Televisione, dove appunto Santoro ha fatto questo, sì, questa, diciamo così, questa polemica, sì, e io dovevo in qualche modo rappresentare Grillo, insomma, fatto in qualche modo da pungible. Bene, è molto semplice, è una contesa fra due protagonisti del video, quindi è un duello rusticano di quelli tipicamente che ce l'ha in qualche modo più duro. Sì, però di quelli che in qualche modo devo dire una cosa molto semplice. Michele è stato criticato in modo un po' così fuori, come è tipico che fa in questo momento Grillo. Grillo utilizza questo snet come fosse una bomba, eccetera. E naturalmente dovete sapere che ormai la lotta è, oggi siamo in campagna elettorale, per cui qualunque cosa, qualunque scontro è possibile. Ma che senso ha per Grillo attaccare Santoro perché nella sua trasmissione ha ospitato uno che ha criticato i 5 Stelle? Insomma, mi sembra una cosa veramente assurda. Cioè... Concordo totalmente, ma questi sono gli eccessi di Michele, di Grillo. Sì. Grillo. Grillo ha sempre bisogno di per la battaglia, eccetera. Dunque stai con Santoro, diciamo la verità, in questo caso stai con Santoro. Ma io, allora, tu lo sai che sono con Santoro, siamo proprio amici, ma devo dire che però, attenzione, cioè, d'altra parte... È il funzionamento del net che è questo qua, bisogna capire anche come funzionano i media, chi te ne frega se ti attaccano, è normale. Cioè secondo te ha esagerato nella reazione Santoro, cioè dicendo scenderemo in piazza, che vuol dire poi scenderemo in piazza, chi scende in piazza? Sì, Michele vorrebbe, a volte si divide tra il suo ruolo di... grande giornalista di investigativo e anche grande capopopolo, lo sai che ha questa doppia anima, e quindi a volte, e d'altra parte non sopporta lui che è stato il simbolo, sì, in qualche modo di tutte quante le battaglie di libertà di espressione, non vuole oggi passare, non vuole che al posto di Berlusconi ci sia Grillo, questo è indubbio, insomma lui pensa, insomma, che ci sono degli spazi televisivi che occorre difendere perché sono sempre stati in qualche modo spazi, certo, di libertà, certo, e quindi basta. Ma questo partine. Sì, posso, però io voglio dire, no, cerca di sbilanciarti, perché tu non mica sei uno che si tiene qualcosa dentro. No, tu, diciamo, in questa guerra che si è aperta, diciamo, quando uno usa certe parole, scenderemo in piazza, la libertà dei giornalisti, Freccero sta, capisce Grillo, cioè capisce l'attacco o no? Sì, io però sono totalmente con Santoro. Con Santoro. E sbaglia, ma questo qua sbaglia. Cioè, proprio Grillo non sbaglia queste cose. Cioè, dovete andare a fare, ma siccome ne ha troppi da attaccare, per cui cioè, si limiti a quello che deve fare. Cioè, sono tante cose su cui può veramente emergere. Cioè, ci sono altre persone da attaccare. Ma un'altra cosa, io capisco anche questo. Allora, anche i giornalisti sono una casta, questo qua è chiaro, non c'è dubbio. Oh, bene, però non è questa cosa di fare l'elenco sempre dei giornalisti peccatori o dei giornalisti sì. da indicare con l'indice medio è ridicolo, ma io per capire, cioè, ognuno fa il suo compito, certo. ognuno deve essere libero, non cominciamo a fare queste sempre questi cioè, anatemi. È una cosa è un po' fascista questa roba qua, Carlo, no? È ridicolo, ridicolo, ridicolo più che ridicolo. Fascista è ridicolo, più che fascista è ridicolo. Senti, ma tu questa di nuovo Grillo fa sempre Grillo. Tu vabbè, Parenzo, che significa? Grillo fa Grillo fa sempre Grillo. Sì, no, certo. Ma non c'è, voglio dire a Carlo, non c'è nulla di nuovo. Beppe Grillo vive con questa non forma mentis, è così, è il suo brand. Quindi cioè, alla fine dice Parenzo che Santoro, dice Parenzo che Grillo considera Santoro casta. Anche Grillo considera solo perché è un giornalista. Capito? Guarda, secondo me è sbagliato invece Grillo di fare questa cosa. Grillo sarebbe dovuto andare da Santoro e sì, lì sarebbe stata veramente un'idea geniale per lui. Questo qua ha fatto un errore ve lo dico, doveva fare come ha fatto Berlusconi. Errore, questo, fatto, caro questo è interessante. No, sì, questo è interessante. Dovrebbe andare da Vespa. Infatti ci vuole andare Grillo da anche da Santoro, Parenzo, guarda cosa è successo l'altra volta, è stato un errore, non devi sempre criticare dall'esterno, è solo con la visibilità che tu puoi criticare e avere in qualche modo vincere, essere visibile, non puoi essere invisibile nel criticare, passi in qualche modo da fascista. Allora io dico una cosa, però io mi schiero dalla parte di Carlo in questo caso. Bisogna che Carlo si preoccupi perché siamo troppo è un po' di tempo che siamo d'accordo, che sono preoccupato, preoccupatissimo. Allora Carlo, io dico una cosa, se uno deve scegliere andare da Santoro in prima serata, perché Grillo sta trattando attraverso Casaleggio con Vespa, se uno deve scegliere dove andare, ma scusa, è vero che Vespa ha un pubblico di un certo tipo, magari il pubblico che interessa a Grillo, e lo show è lì. Però io andrei da Santoro. Scusa, guarda che cosa ha fatto Berlusconi con Santoro l'altra volta. Quanti io punti? In Grillo andrei allora, da Vespa. Allora posso, Parenzo, mi lascia parlare? Sì, sì. Molto bene. Io andrei da tutti i posti possibili e saturerei come Parenzi tutti i posti possibili. Questa è la regola principale. Magari alzandosi dalla sedia e andandosene, facendo casino, imponendo il tuo copione. E la regola principale è proprio siccome siamo ancora la televisione ha un ruolo importante, sì. malgrado ci sia la convergenza dei vari media, ci sia l'integrazione, l'ibridazione, la TV oggi per tanti è ancora il centro di gravità dei media, bene, e allora tu devi andare ovunque, anche perché sia Grillo e sia anche Renzi si lavorano non su un un'idea ben precisa, ma lavorano ormai su tutto quello che è rimasto anche un po' dalla destra, lavorano sulle estremità destra e sinistra. Senti una cosa Carlo, no, questo l'ho capito benissimo, ma non è che dietro questa guerra che si è aperta tra Santoro e Grillo c'è il fatto che Grillo non è voluto andare, c'è proprio cose piccole, secondo me c'è anche questo motivo, è andato da Mentana e non è andato da Santoro, ci sarà anche una questione di invidia o no? Ma torno a ripetere, no, cioè Santoro è incazzato un po' perché lui non è voluto andare a servizio pubblico, no, diciamo la verità. Secondo me il problema è che Grillo non è voluto andare, perché Santoro, secondo me, puoi capire, lo conosco. No, appunto, che Grillo non è voluto andare, questo. E forse sia che questo è senz'altro da giocare. Ha giocato, Però ha sbagliato il Grillo, te lo torno a ripetere. Sì, sì. Perché proprio, anzi, io andrei al limite adesso con dove c'è il nuovo spettacolo della Innocenzi. Cioè, Grillo in questo momento non può sottrarsi, devono in qualche modo, Renzi e Grillo devono fare mezzogiorno di fuoco, essere presenti in ogni anche perché se no i talk non cominciano a funzionare, cioè siccome diventano ripetitivi c'è bisogno. Senti, secondo te Travaglio e Santoro si separano per Grillo? No, no, no, ma chiaro che c'è, come ogni matrimonio, cioè, tu sai benissimo che ogni matrimonio è in mezzo di crisi, di ripetitività, eccetera, ma puoi capire se si separano. Funziona ancora bene, oltretutto c'è il rinnovo del contratto per la 7, ci sono tanti esperimenti che io so che si può fare degli esperimenti. Niente Rai per Santoro, si è parlato di una trattativa che si è aperta, secondo te? No, allora Santoro ha le sue corde, anche non solamente il talk, ma anche, come tu hai visto, la penultima puntata che io ho amato molto. Però tornerebbe la Rai, secondo me, eh? Ah, Facco, secondo me per certi tipi di programmi, io credo che la Rai avrebbe bisogno di Santoro, su questo è indubbio, cioè tra, è un problema di odio. E forse anche Santoro ha bisogno della Rai, in questo momento. Sì, forse anche se cosa c'è, è che Santoro forse con la 7 è un po' strangolato da tutti quanti i programmi, lì sarebbe più risplendente, sì, forse sì, hai ragione anche tu. Sì, allora, sì, Parenzo, d'accordo. Vogliamo parlare del culo della Bakidu per divertirci un po'? Però prima volevo dire una cosa all'amico Carlo, perché cosa? Forse non ci siamo capiti, perché da Vabbè, non c'è bisogno, puoi anche essere in disaccordo con Frecciera qualche volta, mica è necessario che sempre forza. In questo caso sono totalmente in disaccordo, ma semplicemente per una ragione, perché Beppe Grillo, che è un uomo di spettacolo, è in cerca dell'evento. Quando Santoro ospitò nel suo studio il signor Berlusconi, era la battaglia del secolo tra due grandi cavalieri, il cavaliere buono e quello cattivo, poi chi ascolta allora? Può decidere chi è quello buono e chi è quello cattivo. Beppe Grillo dov'è che farà il grande scalpore? Se va dal suo nemico per eccellenza, che è quello che lui reputa il giornalismo più basso, secondo, a sentire Grillo, che è Vespa. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, a grande richiesta, a grande richiesta, a grandissima richiesta. Prima di tornare con Carlo Frecciero, ma anche a Carlo farà piacere ascoltare queste parole, farà piacere sentire questa musica, a grande richiesta, Oliviero Toscani alla zanzara. Uomini, sì. Le suorine di fianco, le serve, sì. Le donne, ma voi donne non vi incazzate, ma scusate, voi donne non vi arrabbiate di questo club di maschi e basta, ma nessuno le obbliga, è però. Anticostituzionale, ragazze, svegliatevi invece di fare le femministe, ma se uno sceglie, andate lo stesso parità di diritti con questi qua del Vaticano, cioè che è un club solo di maschi, ma è logico, è la più grande invenzione omosessuale che ho mai visto, cioè. La Chiesa è la più grande organizzazione omosessuale mai vista. Pensa di essere un marziano, cioè un extraterrestre, sì. Che atterri, diciamo, in Italia. Sì. Entri in una bellissima chiesa cattolica. Sì. Non sai niente di quello che è delle condizioni. Sì, sì, sì. Dunque? Entri, vedi uno attaccato, inchiodato a una croce. Beh, che vabbè, sanguina. Sì, vabbè, no, allora... no, poi un altare. Sì. Un altare con dei bambini nudi che volano. Vedi quell'altro sanguinante perché gli hanno costato San Bernardo, ha tolto la pelle, sai, ce n'è di tutti i gusti. Allora? Io credo che un club sadomaso non sia così all'avanguardia. Ma non si può dire una roba sì! Ma non si può sì! Ma scusa, io sono entrato! Un club sadomaso. E poi chi non ha subito molestie da parte di preti? In collegio confessore che ti palpava, a un certo momento l'ho preso per mano, l'ho portato pure fuori dalla mensa e dico scusi, questo qua palpa, ma è venuto fuori un casino, cioè hai subito molestie da preti, da giovane, da ragazzino tu. Ma io vorrei sapere chi non le ha subite. Beh, no. Allora, caro Carlo, devo dire che la provocazione di Oliviero però è perfetta. Il più grande club sadomaso e omosessuale del mondo mi sembra una delle battute più folgoranti che si possano dire sul... Poi uno la può pensare. No, c'è anche questo fatto, perché tutto quanto il cristianesimo è basato appunto sull'immagine, sul peccato, per cui sulla rappresentazione di Dio e del peccato, di Dio e dell'inferno, quindi è formidabile, dai. È una religione di una... ecco, un cinemascope, è la religione più spettacolare che ci sia, è quella che riesce a rappresentare addirittura Dio, che le altre religioni non lo vogliono rappresentare, cioè è una cosa grandiosa. I cristiani, e non per nulla, sia Andy Warhol che McLuhan sono diventati cattolici, ragazzi, ci sarà un motivo, perché tutti gli esperti di media non possono che essere cattolici. Addirittura? Sì. Ma perché? Per la spettacolarità che c'è intorno alla Chiesa Cattolica, per la iconografia, perché esattamente, per l'immagine, l'immagine, scusa, cioè proprio chi ha inventato i media è stato i cattolici. Però scusa Carlo, in realtà qui però Toscani dice un'altra cosa, dice che è il più grande club omosessuale del mondo. Vabbè, ma questo fa la lettura particolare, beh, la lettura c'è anche ci sono anche le Madonne, ci sono la storia, allora era l'uomo protagonista dell'immagine, scusate, se fosse adesso ci saranno assolutamente la nuova rappresentazione ecclesiastica, anche le donne, eccetera, cioè, è tutto legato, anche tutta la pittura è anche presente, sì. Però sono le donne, cioè, no, diciamo che a proposito di donne, torniamo sulle donne, ma questa sì. Cosa di Tsipras della però voglio dire una cosa molto importante. Dimmi. Qual è il motivo per cui secondo me il nostro amico Parenzo dice una cosa su a proposito di Santoro e Grillo, sì. Ma velocissimamente, perché lui pensa sempre allo schema Pippo Baudo Grillo e quindi pensa Vespa che sia Pippo Baudo. Io credo che invece la vera complicanza che c'è stato a non avere Grillo da Santoro è perché Grillo non vuole misurarsi sul tema della sinistra. Deve prendere posizione, questo è un tema che forse lascio qui. Ma perché non gliene frega? Perché fondamentalmente è di destra, Grillo, diciamo la verità. Gli elettori sono di sinistra, ma lui si comporta come un uomo di destra, o no? Che ha trovato una soluzione. Cioè, secondo te è così? Cioè, lui ha elettori in gran parte di sinistra. Lui non ha voluto affrontare Santoro, infatti, subito Vauro, perché deve chiarire questo tema. E oggi, naturalmente, ho visto che parla di anticapitalismo, eccetera, perché sa che la sinistra rischia in qualche modo di andare su Tsipras, per cui quel 4% al 3,9 sono interessanti anche per lui. Attenzione, chiuso la parentesi, e invece pensiamo alle donne ancora che riguardano appunto la campagna. Ho capito, ma il culo, la lista Tsipras per avere visibilità costretta a tirare fuori la Bakidu col culo, dai, su. Beh, no, è un'operazione anche questa qua di metaforica, tra virgolette. Cioè, geniale secondo te? Ma sì, perché è di una che naturalmente conosce un po' la società dello spettacolo e la comunicazione, siccome appunto la lista Tsipras è rappresentata da quella persona straordinaria, ma che è proprio antimedia, che naturalmente è la signora Spinelli, che quando è l'unica che va nei talk e pensa invece di parlare, perché questa è la sua specialità, cioè lei proprio si vede che non ha risposte preparate, lei ogni volta come se facesse un articolo, quando risponde è come scrivesse naturalmente. Ho capito, però è quello, ho capito, però più un culo che un ragionamento della Spinelli. Ma questa è la televisione, la comune, ma noi che siamo un po' nichilisti, capisci che siamo d'accordo su questo fatto, perché cos'è la campagna elettorale? È solamente occupare spazi, essere visibili, non è importante i contenuti, pensa a Renzi, le spara tutte quante, è importante anzi addirittura occupare spazi, essere visibili, comunicare. Dunque tu che sei un po' simpatizzante di Tsipras, diciamo, forse voterai Tsipras o no? Ma guarda, sì, ma non ti ripeto, lo voto, ma anche così, tappandoti il naso. No, perché sono abituato a perdere, io perdo sempre, lo sai che io amo i perdenti, quindi adesso però scusa, la Boldrini che parla del corpo delle donne nella pubblicità, che è una boiata pazzesca. Ma tu lo sai benissimo che il corpo delle donne è veramente un libro, cioè soprattutto per cui la Boldrini che parla del corpo delle donne da non utilizzare in pubblicità è un com'è? Una stupidaggine pazzesca. Ma sì, assolutamente. Cioè la sinistra della Boldrini è la sinistra destinata a perdere sempre, o no? Continuamente, costantemente e per sempre. Dunque cioè, viva il culo della Bakidu, no? Almeno si parla di Tsipras. Anzi, la metto tra virgolette, oltretutto è una lezione che fa a chi ha scritto il libro Corpo delle Donne, perché lei ci ha attaccato a Drevin, ha attaccato anche il scritto con Libero, eccetera, per capire se... Ma perché la televisione a qualche volta che per un po' più la mette tra virgolette certe cose, cioè si diverte anche l'accettazionismo, eccetera, cioè per favore, questi moralismi, ecco, questa cosa. Lo so, ho capito, però nella stessa lista, Parenzo, ci sono la signora Zanardo e altre persone che, insomma, diciamo la verità, Carlo, se ci fosse stata la Minetti o una donna berlusconiana lì, l'avrebbero massacrata a fare questa roba. Sono d'accordo. Però devo dire, sono d'accordissimo. Ma sì, però lei, io conosco la, questa persona che l'ha fatto, e la so che l'ha fatto per citazionismo e per situazionismo. Per cui secondo me l'ha fatto. Però quando lo fa la sinistra è per situazionismo e per provocazione, quando lo fa la destra è volgarità. Per capire se io ho mai attaccato quelle cose lì. Tu lo sai che un cioè. Ma scusa, Freccero è quello che ha portato in televisione il signor Villaggio che era a letto con Mona Pozzi durante un appello del martedì, ma di che parliamo? È un grande pezzo di televisione. Ecco, pensa un attimo come la visione che gli ho fatto lo sport rispetto a quello invece adesso che c'è stata durante la Coppa Italia. Vedi che le, oh, a proposito, Parenzo, che volevi dire? Ma come si fa a non capire che c'è una differenza tra il sedere della signora di Tsipras e quale? L'ipotesi di mostrare il sedere della signora Minetti? No, ma è una differenza abissale. Ma quale differenza abissale? Minetti, a parte che la Minetti, ti dirò di più, la Minetti non ha mai mostrato il culo per fare la campagna elettorale. Ti dirò di più, meglio la Minetti della Bacchiddu. Ma come si fanno? Ma veramente perché devi buttare sempre la palla tra gli spalti e farla finire nelle mani di quel maledetto Carogna? Ragiona un secondo, il sedere di Tsipras perché è un bel sedere ed è un sedere politico? È una riflessione su cos'è la comunicazione politica. Dico bene, Parenzo. Ma no, Carlo, pure te su questa cosa qua. È una cosa da cui, che io non mi aspettavo da Tsipras, perché non devono mostrare il culo quelli di Tsipras, devono mostrare altre cose. Non hanno mai mostrato il culo! No, ragazzi, non ci siamo. Da voi pensate che quando mostrano il culo quelli di sinistra sia per fare la provocazione, quando lo fanno quelli di destra sia una cosa volgare, dai. Ma quelli di destra non la mostrano mai, oltretutto. Sì, forse in privato, lo danno in privato, però. Lo danno in privato, però. Lo fanno in privato, se lo facessero pubblicamente sarebbe che non sarebbe l'hanno mai fatto. Questo è vero. Giustamente. La Minetti non l'ha mai fatto in pubblico, no. Renzi se ne doveva andare insieme a Grasso lì sabato? Assolutamente. Ma ti spiego anche questa cosa, scusa la cosa. Tu lo sai che questa disuguaglianza intellettuale, economica che c'è tra i ricchi, intelligenti, i poveri, gli scemi, eccetera, crea delle isole dove per esempio, come nella curva, dove tutto è permesso, è uno sfogo, cioè lei è permesso, il legalismo di massa. Allora, queste persone che in qualche modo si vantano sempre di essere rappresentanti dello Stato, di essere sempre... A me sono rimasti lì a vedersi la partita e hanno visto trattare uno con quello ciuffo lì, oltretutto se lo fa Balotelli che è una star, la può avere quel cappello lì, se lo fa Amsi che è ridicolo, capisci? Perché Amsi non è una star, è una rockstar. E a trattare con quello lì... Jenny a Carogna, sì. Cioè devono andare via dallo stadio, secondo te? Beh, chiaro, cioè, è una questione, cioè, è nel loro ruolo. Io lo dico, cioè, vuol dire che sono come tutti quanti. Lui voleva vedere la Fiorentina vincere, che sapendo benissimo. Se ne fotteva di Jenny a Carogna. Oltretutto, era molto chiaro che doveva vincere il Napoli dopo questa cosa. Beh sì, anche a me non è sfuggita questa cosa. Se non vinceva il Napoli sarebbe successo l'inferno. Di tutto, per cui era inevitabile la vittoria del Napoli. Tu lo sai meglio. Senti, ma l'ipocrisia più assoluta di oggi, secondo me, di dare 5 anni di Daspo a questo Jenny a Carogna dopo che ci sono andati a parlare tutti, compresi i poliziotti. È insopportabile, avrei già preso non so quanti anni. Basta, è già finito. Ma è una cosa elettorale questa roba qui, dai, è una cosa tutto trasforma, è quello del culo, quindi tutto oggi in questo momento, e devo dire che sono partiti troppo appena, è tutto elettorale, per cui è nauseabondo, per cui è insopportabile, perché ogni cosa che viene fatta è letta in quel modo lì. Vabbè. Bisognerebbe un attimo, cioè, c'è il rischio che finisca troppo presto questa campagna elettorale, perché speriamo di no, almeno abbondano le cazzate. Carlo, sì. A presto, ciao. Mi raccomando, e lavorevi, abbraccio forte. Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire. Sei ancora a casa, Evo? Io che fatica a sopportare di notte le zanzare. Love of my life. Vado a Oh, Love of My Life, la Minetti. Ma abbiamo una nuova Minetti, la signora Bacchidu di Tsipras. Il lato B della sinistra, il culo della sinistra, amico mio. Non te lo consento. Ma come no, come no, come non te lo consento. E se mi dai 30 secondi ti spiego perché. Sì, ma 30 secondi, però non le tue cose prolisse, lunghe, filosofiche, complesse, complicate, incomprensibili. A proposito, ma non ricevevamo più telefonate. No, è semplicissimo. Dimmi, c'è da una parte un sedere politico, che è quello di Tsipras, è un sedere politico. Dall'altra, in alcuni casi, abbiamo invece assistito a un uso politico del sedere. Allora, capirai bene che questa non è una metà, ma è una cosa molto concreta. Cioè, il sedere politico è quello che serve per far parlare, far passare il messaggio, esiste quella lista. È il sedere politico. Sì, siamo andati oltre i 30 secondi, comunque vai. L'uso politico del sedere è un'altra cosa. L'uso politico del sedere è un'altra cosa, cioè quel sedere è politico, cioè il sedere della Bacchidu è politico, e invece chi utilizza il sedere per arrivare alla politica? Guarda che ho detto una cosa che se vuoi ancora... No, ma ripetila, perché io veramente sono stupido alcune volte. Allora, vuoi che la ripeta per bene? Sì, ripetila per bene. Allora, esiste un sedere politico, che è quello della signora Bacchidu. Che è il sedere politico, cioè il sedere di Tsipras. Il sedere che serve, ecco perché è politico, serve per dare spazio e visibilità alla lista Tsipras che altrimenti non avrebbe. Quindi c'è invece poi un uso politico del sedere, cioè? O del corpo, cioè? Se vuoi, cioè? Che serve per fare altro. Ecco, questa è la differenza. Serve per fare altro cosa? Cosa serve per fare che? Scusami? Serve per fare che? L'uso politico del sedere? Beh, può servire a diverse mille cose, quello può servire. Cosa? Arrivare a una parte? Io questo non lo so, io ti lascio. Vabbè, ma come aforisma. Sei ipocrita, dai, su. Ti lascio questo aforisma. Vabbè, sentiamo Marco da Cagliari. Quello dai. Di Tsipras è ho capito, sì, politico. Vabbè, quello di sinistra è così, è una provocazione, generale. Quello di destra è la volontà. No, dai. Non lo so, in tra l'altro caso, questa qua è una cosa, altri casi, è una cosa che sinistra... ha detto Feltri ieri sera, Risentiamo Feltri per un attimo ieri sera su questa cosa. Ha messo una foto su Facebook mostrando un sedere, dicendo... Un corpo, diciamo, dai. Sì, no, un sedere, cioè eccolo qua, lo potete vedere tutti, un sedere, lo possiamo vedere a pieno schermo, cioè non è strano, ecco, beh, non è bel sedere. Non è mica tanto brutto, io l'ho visto, non è tanto brutto. No, anzi, assolutamente no, però lei dice... Vogliamo adesso commentare com'è? Il sedere della Bacchidu? Parliamo del sedere, dai, sì, parliamo del sedere. Hai ragione, ma sarebbe il caso di parlare del sedere, assolutamente. Il sedere di sinistra è ironico, se ho ben capito. Il sedere di destra no, è no, ma si autodichiara vocale. Ironico. Sì, il sedere no, di destra che hai detto? Il sedere di destra? Il sedere di destra invece è volgare, no? Perché lo sappiamo, è sempre stato così. Allora, dove eravamo con Marco? Sì, Marco Cagliari. Pronto, buonasera, Cruciani. Vai, vai. Volevo soltanto dire che come sempre stimoli delle riflessioni e la più immediata è che io proporrei che la maglietta usata da Eugenio Uvazzo, come lo chiamano, venga utilizzata quotidianamente. A Carogna venga utilizzata quotidianamente in modo tale che si possano individuare facilmente gli imbecilli per strada. Per quanto riguarda il sedere invece di sì, ma non può essere un modo per cioè non è che per entrare allo stadio e devono scoprire uno e vedere se c'è la maglietta con scritto speciale libero, ragazzi, ma non è quello il problema, non è la maglietta. Certo, serve a individuare dei deficienti, come dici tu, degli imbecilli, su questo non c'è dubbio. Il problema è che come sempre dovevano buttarlo giù dalle quelle infarriate a prescindere dalla maglietta che indossava. Perché comunque era il gesto che doveva essere colpito, ma la maglietta è, diciamo, è soltanto un elemento per identificarlo, così come la Bacchidu ha usato il sedere per identificarsi, e speriamo che la prossima volta non lo faccia parlare. Quando la zanzarina... Caro David, prosegue a sprombattuto la campagna elettorale di Alessandro Cecchi Paone, ormai diventato, dopo lo spot elettorale che qualche giorno fa abbiamo fatto sentire, in cui c'era prima il Papa, poi c'era Sofia Loren, poi c'era la moglie col gatto in mano, c'era Berlusconi ovviamente, ma non c'era nessun gay, non c'era nessun omosessuale, non c'era nessun frocio. Voglio bene a tutti, diceva Cecchi Paone in questo spot, è diventato per noi un mito assoluto. Come si fa a non mettere un omosessuale quando hai fatto una campagna elettorale, una battaglia politica negli ultimi anni proprio su questi temi? Con la pantofolita. Ma la campagna di Cecchi Paone prosegue a sprombattuto. Si trovava l'altro giorno il nostro mito assoluto a Salerno, perché è candidato per Forza Italia in quelle zone lì. E duettava con la signora Fusco, Lisa Fusco. Sentiamo. Tu mi hai chiesto una cosa? Alla fine, sì. Alla fine. Perché vedete... Io mi sono documentata, perché tu lo sai che io non parlo in inglese. Ho dovuto andare al Parlamento Europeo. Sapessi quanti deputati al Parlamento Europeo non lo parlano e non cantano e non hanno le tette come le tue. Quindi figurati, voglio dire, ti puoi permettere questo e altro. Però io mi sono andata ad informare, ho visto che la è una vera professionista. Mi ha promesso di cantare non Happy Birthday perché okay, non è il mio compleanno, ma Good Luck. E vuol dire buona fortuna. Buona fortuna, come Marilyn fece con JFK, con Kennedy. Lei è una meravigliosa riproduzione troppo... di Marilyn in Scala. Però comunque tutto sommato, d'altra parte si chiama la subrettina, non a caso. Io non sono Kennedy, però insomma poi possiamo dar vita a questo. Che peccato. Che peccato. E poi si è messa a cantare. Cantina. Good luck to you, good luck to you, good luck for Mr. President, good luck for you. Bomba. Bomba. È un ballo molto antico, di origine tribale, sensuale e naturale. Quanti anni ha? La mano metti al fianco mentre quell'altra sale, ti muovi con è molto più stabile di me. Ci tengo a precisare che io non bevo, non fumo, non mi drogo, sono proprio naturalmente stupenda. Sono vere tutte, sono le, vere, cose belle tutte le cose che vedi. Erano le uniche vere sull'isola. Sì, vabbè, ma mi sono un po'. Lunga vita e bunga. È con noi, caro Parenzo, Tommaso Cerno, giornalista dell'Espresso. Buonasera. Buonasera. Ciao Tommaso, come stai? Bene, bene, abbastanza, nel caos delle riforme. Allora, Tommaso Cerno, oltre a essere l'autore, giornalista dell'Espresso, autore di un libro che si chiama Inferno, se non sbaglio. Sì, Inferno, il titolo è copiato, diciamo, da un libro più famoso. Non c'è per dubbio. Il momento più famoso, perché insomma vedremo fra 700 anni se avremo sguagliato la fame. E anche uno dei... ha fatto tempo fa anche un coming out, cioè è omosessuale come Cecchi Paone, o ti offendi se dico come Cecchi Paone? Meglio, è un po' meglio di Cecchi Paone, sono omosessuale un po' meglio di Cecchi Paone. Che vuol dire meglio di Cecchi Paone? Hai sentito innanzitutto questo spot elettorale, te l'ho fatto vedere anche ieri sera a Tango? Beh, c'è da ringraziare il cielo che è tornato a fare la campagna elettorale per gli etero, perché ci darà una grossa mano in questo modo. Cioè, come tu dici, è tornato nel direttamente? Senso che, conviene, nel senso che a questo punto, se lui fa campagna elettorale come ammogliato etero, i gay hanno da guadagnare ad averlo perso, visto il tono e il pantheon che ha presentato. Cioè, secondo te lui non è uno dei come dire, dei capisaldi della che ne so, di tutte le battaglie omosessuali, eccetera, ha addirittura rovinato. O no? Io credo che abbia fatto più Giovanardi per i gay di lui, nel senso che Giovanardi, se non altro, quando va in televisione scatena un gay pride, diciamo, inconsapevole, quindi quelli che sono a casa sentono quello che dice e pensano il contrario. Lui invece, volendo aiutare i gay, probabilmente li ha danneggiati, quindi se adesso si ritira e torna, diciamo, da Berlusconi ad amare il Papa, Silvio e la moglie, la moglie pure, la Loren, e con questo accenno di Marilyn che ancora un pochino lo fa trascendere, sì. Ecco, diciamo che forse è meglio, i gay forse ce la fanno con più facilità. Senti, ma anche nel mondo del giornalismo esiste un problema di coming out, oppure no? Ma sai, per me il coming out è un problema... Cioè, nel mondo del giornalismo, se uno dice di essere omosessuale, non è che succede qualcosa di particolare, come nel calcio, no? No, no, tendenzialmente non lo so, nel senso che poi moltissimi non lo dicono. Io credo che ci sia... Perché moltissimi, anche nel giornalismo è così? Perché se tu pensi, io credo che i gay siano più o meno distribuiti nella società proporzionalmente, no? Quindi sì, tu li hai tra gli architetti, tra i giornalisti, tra i preti, tra le suore, tra i maestri d'asilo, però guarda caso ci sono alcune categorie dove sembrano il 50% e altre dove sfuggono, e quindi significa che lì c'è maggiore omertà, non che ci sono meno. Ma gay. Anche tra i giornalisti secondo te? Sì, anche tra i giornalisti, nel senso che poi i giornalisti gay non è che siano tantissimi, così come a meno quelli che non sono gay prima che essere giornalisti, come è capitato a un certo punto a Cecchi Paone, che in un momento di difficoltà è stato più gay che conduttore televisivo, adesso torna a essere conduttore televisivo un po' meno gay, c'è una compensazione, molto spesso l'omosessualità è usata dagli stessi gay per darsi una visibilità che magari la professione non riesce a dare loro, perché i gay hanno gli stessi vizi e le stesse storture degli eterosessuali, a volte anche peggio, quindi non è che il gay è buono, no, e certo, quindi quando dice di essere gay lo fa sempre a fini positivi, ci sono dei coming out commerciali che servono ad andare sui giornali, per esempio? E il suo un pochino è stato così, perché se tu pensi, la comunità gay dall'omosessuale Cecchi Paone cosa ha ottenuto? Nulla. L'omosessuale Cecchi Paone dalla comunità gay ha ottenuto, diciamo, un ascolto anche esagerato che poi gli è servito, e quindi lui passa da essere repubblicano, Forza Italia, riformatori, poi con simpatia di Pietro, sostiene Rutelli alle elezioni di Roma, poi va da Boselli con Grillini, poi sposa, cioè, i radicali, poi torna dai repubblicani, e nel decennale del coming out, quello del 2004 che fece, fa il coming in, credo che sia il primo caso nella storia, quindi a 10 anni dal coming out ribalta tutto e fa il coming in, e quindi oggi noi parliamo di lui in quanto ex gay, quindi 2 volte usa l'omosessualità per darsi un tono. In questo senso è molto bravo, ma non c'entra nulla con le istanze dei diritti gay o tutto quello che, diciamo, ci dovrebbe stare intorno. Però bisogna dire una cosa, Parenzo, che io sono sicuro assolutamente ragione. C'è l'uso politico della gayitudine. Sì, sono, però esiste, questo qua però non è solo di Cecchi Paone, ci sono anche altri. No, per esempio, secondo te, uno come Scalfarotto, Cerno, che è un omosessuale, eccetera. Secondo te, per carità, io non metto in dubbio le sue qualità come uomo d'impresa, manager, quello che è stato, se non fosse stato gay sarebbe entrato in Parlamento? Questa è una domanda che ti faccio molto secca. La domanda è giusta e la risposta è semplice, bisogna domandarsi se è più gay o più intelligente il motivo per cui è secondo te? A giudicare dalla legge sull'omofobia che ha fatto, per il momento è più gay che intelligente, perché l'unica legge che ha fatto è a favore dell'omofobia, cioè abbiamo dovuto mettere un omosessuale in Parlamento per fare una legge contro i gay. Quella sulla cosa, quell'emendamento. Dopodiché Renzi lo ha difeso perché probabilmente non l'ha letta bene, mi auguro, però certamente per il momento è più gay che intelligente. Vediamo se al Senato la modificano e diventa tanto gay quanto intelligente, allora potremmo dire che è lì anche perché è un po' intelligente. Senti, nel tuo inferno che c'è? Che hai messo l'inferno è straordinario, nel canto sui gay? C'è un piccolo paradiso gay nell'inferno etero, dove ci sono personaggi più strani che si incontrano, per esempio Pezzana, Vattimo e Vendola, che incontrano Pasolini e Versace che difende i suoi assassini in un grande inno all'amore, e Pasolini che in qualche maniera risponde ad Andreotti dopo tanto tempo sulle critiche che Andreotti fece, dicendo in fondo quella morte se l'era un po' cercata. Vabbè, quindi, Parenzo, dove sei? Sempre sono a Bruxelles, disteso sul letto della camera, della mia camera, che è la 412. Sì, 412 quale albergo, scusa? Beh, se dico ma non c'è una bella sauna? Aspetta. Non c'è una bella sauna lì, sì? No, in questo no, perché sono in spending review, posso dire, forse è una catena molto low profile. Beh, le sauna costano meno. No, ma infatti non c'entra, ormai le saune stanno ovunque, che lo profano. No, è a Bruxelles, no, ma non c'è neanche, guarda, non c'è neppure, e questa è una cosa molto grave. Senti Mughini, sì, Giampiero? Mi dispiacerebbe andare a fare in culo. Ecco, e con questo, siccome eri steso sul letto e dall'altra parte del vetro i lavoratori qui di Radio 24 ti mandano a fare in culo e ti fanno anche il segno il gesto dell'ombrello. S'approcio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, e che c'è passo fa. Caro David, devo dire la verità, fanno ancora rumore le frasi pronunciate dall'avvocato professore Carlo Taormina, poi chissà se è davvero ancora professore Carlo Taormina, E qui alla Zanzara, sempre sul tema degli omosessuali, l'altra settimana il professore aveva detto, con la tua seguente indignazione, che i gay hanno anomalie psichico-fisiche e anche delle che aveva detto pure Parenzo, non mi ricordo, tare mentali, che aveva detto, non mi ricordo, no, delle tare mentali, ma soprattutto fisiche, difetti fisici. No, difetti fisici. Vuoi parlare un po' più a voce alta? Vabbè che sei sdraiato sul letto, cazzo, non si sente nulla. No, ma mi hai detto di No, mi hai chiamato oggi pomeriggio dicendomi di non urlare. Ma dipende che, da che telefono sei collegato, amico mio. Dipende da che telefono sei collegato, ma come te lo devo dire? Dai, sta dormendo. Come si fa a scoprirlo prima? Ma che ne so, io penso di sì che si scopra. Cioè? Cioè che, che in qualche modo prima si potrebbe scoprire? Ma io penso che siccome sono delle anomalie, diciamo così, genetiche. Anche fisiche, genetiche. Quindi. Fisiche. E dunque lei fisiche. Ma guardi lei, ma chi è la Parenzo follia che parla? E lei, sì, è ma come fai, Carlo, a dire anomalie fisiche? Scusami. Ma scusami. E quell'altro che non ti dice niente. È una cosa nazista, giunta. È una cosa nazista. Ma è Cruciani che non ti dice niente. Ma come anomalie fisiche? Guarda. Ma guarda, le migliaia di persone che ci ascoltano, che magari sono omosessuali, ma come si devono sentire se tu gli dici che hanno anche anomalie fisiche? Sentire, che debbono sentire che io ritengo offese. Che sono anormali. Che ritengo che sono anormali. Delitto da mettere alla gogna. Nessuno sa dire esattamente. Gli ha risposto oggi Carlo Gabardini, che è un attore, credo anche giornalista, scrittore, che qualche volta conduce dei programmi qui anche da noi, il quale Gabardini ha fatto una specie di parodia dell'omosessuale malato. Diverse persone mi hanno detto: Carlo, tu la fai facile, ma guarda che essere gay è una tragedia, è contro natura, è una malattia. E la peppa. Siccome io, quando mi dicono qualcosa, come prima reazione ci credo e per seconda mi sento in colpa, ho iniziato a pensarci. Cavolo, a saperlo prima facevo coming out subito, a 14 anni. Mamma, oggi non posso andare a scuola, sono molto malato. E che cos'è che avresti? Oh, la ricchionite cronica. Mi porti la colazione a letto? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soffrogio e me. E che c'è? Io voglio anche i vantaggi dell'essere malato, non solo la paura. Voglio il posto dedicato sull'autobus, riservato ai ricchioni. Signora, mi spiace molto farla alzare, ma sono gay. Vabbè, scusi, ma a me chi lo dice? Beh, può chiamare mia mamma e chiederglielo. Ma no, scusi. Oppure limono con suo marito. Voglio l'esenzione dal ticket. 96 euro, no, non è possibile, io ho l'esenzione, sono gay. È una malattia cronica, non è che domani mattina, non so, mi viene voglia di fare l'amore con lei, glielo assicuro, io sarò gay finché campo. Voglio la legge contro l'omofobia, perché effettivamente insultare uno malato è molto più facile e grave che insultare uno sano. Voglio il rispetto che si deve ai malati e possibilmente vorrei anche qualche piccolo gesto di carità. Allora, io dico una cosa, caro Tommaso Cerno, giornalista d'Espresso in collegamento con noi, che Taormina la può pensare come vuole, però io credo che non è che uno può essere accusato, cioè tu lo manderesti, che ne so, al gabbio, lo accuseresti di qualcosa, no, lo processeresti, no, certo. è un'altra forma di cecchipaonismo, di utilizzo dell'omosessualità per farsi pubblicità, solo che la utilizzi al contrario. Dopodiché un certo cinismo c'è in chi dice che l'omosessuale è malato, handicappato e diverso, anziché trattarlo bene lo tratta anche male, quindi c'è anche una sorta, come dire, di profonda contraddizione, perché proprio perché tu dici che è malato dovresti avere un minimo di cortesia, però siccome loro lo dicono sapendo che non è vero, poi invece sfogano la rabbia. Ma è un utilizzo dell'omosessualità, cioè sull'omosessualità vive tanta gente in televisione, pubblicamente. Taormina è uno di questi, niente di più. Però lui è veramente convinto, lui è veramente convinto. Ma sai, erano convinti che la Terra girasse intorno al Sole, che il Sole girasse intorno alla Terra, e poi si sono accorti, erano convinti che le donne non dovessero votare. Siamo stati convinti di tante cose, poi abbiamo scoperto la penicillina, scopriremo anche l'antidoto agli avvocati strani. Perché tu mi dirai che, cioè, mi dici che in realtà la legge sull'omofobia è una stupidaggine, eh? Sì, no, è una legge omofoba, cioè c'è stata talmente, vedi, cioè, l'omosessualità è talmente complessa che tu nel voler fare una cosa a favore finisci per farla contro, perché cosa dice questa legge in sostanza? Dice che ci sono dei gruppi di persone, tra cui gli ebrei, le persone di colore, sì, e gli omosessuali che vengono aggiunti, che subiscono delle violenze, sia gli insulti sia violenze fisiche, non perché hanno fatto qualcosa, non perché Cruciani, Cerno, Parenzo hanno fatto una cosa e quindi subiscono una violenza per quanto sbagliata contro di loro, ma perché nell'immaginario del violento rappresentano l'omosessualità. E quindi, dice questa legge, lo Stato deve intervenire da solo, perché è una violenza contro tutti. A questo punto cosa succede? Cosa fa la legge di Scalfarotto? Classifica, diciamo, le minoranze che vanno colpite un po' di più e un po' di meno, cioè istiga a delinquere contro i gay. Dice al pazzo: se tu vuoi picchiare uno, ti conviene picchiare un gay che prendi meno, perché se picchi un ebreo prendi di più. Allora uno Stato che fa una legge del genere ce l'ha coi gay, non li vuole difendere. Allora se un omosessuale per fare un accordo non si capisce bene con chi fa una legge del genere, è meglio che vada un etero in Parlamento. Io sono a favore degli etero in Parlamento, purché facciamo delle leggi sensate, perché se devo avere i gay che fanno leggi stupide, preferisco gli etero che fanno leggi sensate. Parenzo? Di dubbio. Parenzo? No, io rispetto il parere di Cerno, ma sono tra quelli che ad esempio pensa che una legge sull'omofobia fatta bene, come una legge, come esiste la legge, no, Mancino, ma se uno dice froscio di merda, secondo me è un cretino, no, e basta, del merito, è un semplice, ma no, ma lascia perdere, merda, se io dico froscio di merda deve essere perseguito, ma quando come mai è solamente un cretino, merda, ma dico, ma uno dice negro di merda, capito? Ma te ne va, ma come deve essere perseguito, vuoi intasare i tribunali, è il mio parere, tu ormai sei entrato nello spirito di Gigi, è un tema giusto quello che ponete, però a questo punto, visto l'intervento legislativo, allora bisogna abrogare tutta la legge Mancino. Cioè, se noi stabiliamo che la società italiana è arrivata a un punto in cui non serve questa attenzione di tutela, ed è una posizione legittima, non serve per nessuno. L'importante è che se tu decidi che serve, per tutti sia uguale, non ci sia uno diverso che è due volte diverso e quindi diventa il bersaglio indicato dalla legge dello Stato per, diciamo, invece che per punire il delinquente, per dargli una pena minore. L'importante è questo. Poi io ti dico, non, alla domanda, cioè, scusa, serve, tu denunceresti uno che ti dice frocio di merda? No, assolutamente, anche perché frocio sono, di merda una sua opinione, ma io posso difendere. Vedi, il problema è che c'è in qualcuno la capacità di difendersi automatica, no? Sì. E poi ci sono delle persone che non vogliono vivere in un paese dove devono quotidianamente lottare per un paese più giusto, o per la propria dignità. Noi non possiamo costringere tutti i gay a essere Michelangelo, a essere, capito, il grande. Ma ci sono delle persone che fanno una vita normale e subiscono delle aggressioni, o addirittura degli eterosessuali che vengono da questi ignoranti scambiati per gay perché magari sono vestiti alla moda. Ma lì c'è la legge normale, però. Lì c'è la legge normale. No, ma voglio dire, segui questo ragionamento sulla legge normale. Allora, io sono un ragazzo etero, io mi vesto come mio nonno, quindi a me non può capitare. Però un ragazzo etero, giovane, vestito come si vestono adesso, esce da una discoteca, viene individuato come omosessuale da un balordo, il quale lo picchia perché lo ritiene gay. Questo ragazzo è etero. Con la legge normale, per subire l'omofobia che lui ha subito, questo ragazzo dovrebbe in qualche modo dire io sembravo gay, che è una cosa pazzesca. Quindi che una legge stabilisca che se tu colpisci l'omosessualità, ferendo un uomo che non è detto che sia gay perché tu hai quell'odio in testa, ti persegua con l'aggravante dell'omofobia anche se l'uomo è etero, è una legge giusta. Che non può obbligare il ragazzo a dichiararsi ciò che non è, se lui la violenza l'ha subita. Ma lì basta la legge normale, perché c'è la violenza privata, c'è le percosse, tutto quello che vuoi. Allora la legge normale deve valere per tutti, mentre in Italia cos'è successo? Che per alcuni vale, per altri no. Per cui nel momento in cui stabilisci che per delle minoranze non vale, o le metti tutte, oppure esponi una minoranza al pubblico ludibrio. Sì, ho capito. E quindi tu, Stato, istighi a delinquere, diventi tu il criminale. E quindi diventa un delitto dello Stato contro il cittadino. Ne abbiamo subiti tanti, Questo sarebbe uno in più, non c'è da stupirsi, però è quello il punto, quindi o tutti o nessuno. Parenzo, vabbè, Tommaso... Io sono per metterle tutte, infatti. Sì, per metterle tutte. Allora... Basta che non sia... Metterle tutte, detto, dai ragazzi, Giovanardi su. Giovanardi vuole aggiungere i tifosi di calcio, ha detto varie volte, allora anche i tifosi di calcio. In questi giorni in cui il tifo del calcio è all'attenzione, tu ti poni il problema. Se io picchio uno perché lo ritengo tifoso di una squadra, e magari non lo è... Prendo due anni in più, hai capito? Allora il problema è stabilire o tutti o nessuno, l'importante è che non sia qualcuno. Cioè, noi abbiamo il paese dei privilegi anche in chi viene picchiato, se noi siamo il paese della casta anche di chi la violenza la subisce, allora basta, o tutti o nessuno. Ciao, a presto, ciao Tommaso, ciao, a ciao, presto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Enrico Frosinone. Luciani. Dimmi. Buonasera. Sì. Volevo prima di tutto complimentarmi con voi, due stronzi simpatici, che tutte le sere vi sento. Poi? Poi volevo dire alla Beppe Grillo a Cosoli, a Parenzo. Sì. Vaffanculo, perché un culo, o di destra o di sinistra, è sempre un culo. Non può essere definito uno politico o uno non politico. Non esiste, il culo è sempre un culo. Cioè, che vuol dire? Scusa, no. Scusami, vuol dire professore, che è una volgarità ambedue. Non può essere messo in politica un culo per significare che cosa? Ma no, è questo significa? Quella è una provocazione per dire non passano, non parlano di noi, non parlano di noi, e allora esatto. Vi dimostro che mettendo un culo in bella mostra adesso cominceranno a parlare di noi, anzi parlano soprattutto del culo, capito? Ecco, vogliono deviare gli italiani a pensare solo al culo. Vabbè, non hai capito niente. Questa, professore, è una teoria strana. Comunque, secondo me, alla fine torna indietro come un boomerang nei confronti dei signori di Tsipras. Cioè, non credo che faccia molto bene, non credo che il loro elettorato insomma, l'abbia presa molto bene questa cosa del sedere della signora Bacchiddu. Corrado da Verbania. Ma perfetto. Corrado, dimmi. Senti, il discorso del culo, tu però lo devi anche contestualizzare. Aridaglia con questa contestualizzazione, no, del culo. Ma vabbè, dai, Cruciale, tu non puoi nascere ogni giorno continuamente e dimenticare tutto quello che è successo precedentemente. Cioè? Il corpo delle donne è nato, e lo sai benissimo, perché qualcuno ha candidato alle elezioni politiche delle donne del suo entourage. Bravo. Oh, e allora la differenza, a me dispiace essere d'accordo con Luciani, allora? Con i suoi maglioncini del Kashmir, da radical chic, ma ha ragione ha ragione Parenzo, scusami, ecco, aggiungo no, ragazzi, questo, ma il ragionamento non era solamente sulle donne candidate, il ragionamento del corpo delle donne e di altre cose era anche sull'uso di quel corpo lì, cioè sulle donne vicine a Berlusconi, ragione, che in realtà erano showgirl, eccetera, utilizzavano il proprio corpo per arrivare a posizioni importanti, ad avere dei posti nel mondo dello spettacolo, eccetera. Per cui non era solamente l'entourage di Silvio. Loro, come dire, accusavano il berlusconismo di aver utilizzato le donne in un certo modo, e Berlusconi in particolare. Per cui di che parliamo? In questo caso c'è invece proprio la pubblicità del culo per parlare di Tsipras. Corrado, è uguale. Io adesso non voglio dire, però no, vengo dire. Da una generazione dove si diceva le tette sono di sinistra e il culo è di destra, un certo tipo di scarpa è di sinistra. Ragazzi, voi la potete distinguere come volete questa cosa qui, ma quando una di sinistra vicina agli intellettuali, a Barbara Spinelli, a Monio Vadia, una di sinistra fa vedere il culo su Facebook dicendo altrimenti così faccio vedere il culo perché vi dimostro che in questo caso parlano di me, invece se non faccio vedere il culo non parlano di Tsipras, fa un'operazione uguale, identica a quelle che in realtà non lo fanno nemmeno, insomma, a quelle che si fanno vedere. Ma te l'ho detto prima, cioè quando parlo di sedere politico parlo di questo, cioè il sedere politico serve il sedere per far parlare di Tsipras, l'uso politico del sedere è quelli che invece hanno utilizzato il corpo per fare politica. Va bene, Maria da Milano. Meno male. Senta, io è da tanto, buonasera intanto. Dimmi. È da tanto che vorrei mandare a fanculo Davide Parenzo. Mi aggiungo a quello di prima e anche a Mughini. Tutte le sere glielo voglio dire, che se lo ricordo, adesso che è a casa, lì a letto, questo è tanto per iniziare. Tanto per iniziare vuole mandare a fare in culo Parenzo e Mughini, così, in serie, poi? No, Mughini fa bene a mandarlo tutte le volte, Mughini no, è simpatico. Ma allora, no, scusi, vuole mandare a fare in culo o no? Non ho capito bene. No, cioè... Davide, no, mi aggrego a Mughini che lo ha mandato prima. Poi veloce, vai. No, perché a Davide bisogna dirlo tutte le volte, anche tu glielo devi ricordare. Ogni tanto dagli una sveglia, quello lì è antipatico. Vabbè, quello che invece io volevo dire, quel morto di fame di Toscano Oliviero, che tutte le volte che tu lo inviti lui fa questo ragionamento del cattolico. Ma questa simpatica nonnina dove l'hai trovata? Va bene, Maria, lei è... Ma che frega a noi? Scusa, fammi capire, ma perché lui deve criticare noi che siamo cattolici? Se lui non ci crede, ma perché deve venire a rompere le balle anche noi, quel morto di fame che fa il comunista e poi col portafoglio a destra? Hai capito? A domani, comunista, a domani. A domani. Ciao Parenzo. Il sedere di sinistra è ironico. Il sedere di destra invece è volgare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono tempi duri, eh. Radio 24. La passione si sente.